Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. L'agricoltura è in difficoltà ormai da molti anni, non solo in Italia ma in tutta Europa. Europa il cui budget annuale è in gran parte dedicato agli incentivi all'agricoltura. È una situazione da cui è quasi impossibile uscire senza una trasformazione notevole, profonda, che da diversi anni si ritiene potrebbe arrivare almeno in parte da una riconversione del comparto agricolo, che senza abbandonare la propria attività storica, cioè quella di produrre alimenti, magari concentrandosi sulle produzioni a più alto valore aggiunto, potrebbe trovare nelle agroenergie, quindi nelle colture dedicate alla produzione energetica, una propria nuova vocazione e forse anche l'indipendenza economica. Tutto ciò mentre la cosiddetta seconda generazione di biocombustibili, quelli cioè derivati da colture cellulosiche anziché alimentari, è alle porte e in Italia, importantissimo, si discute del recepimento della direttiva europea 28/2009, che assegna un ruolo di grande importanza alle biomasse. Facciamo allora il punto della situazione con Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura. Buonasera Vecchioni, benvenuto. Buonasera a voi. Allora, le chiedo subito, proprio su questo decreto legislativo di recepimento, noi qui a Mr. Kilowatt ce ne stiamo occupando abbastanza ampiamente, qual è il vostro giudizio? Che cosa vi piace e che cosa non vi piace di questo decreto? Diciamo che dal nostro punto di vista l'impostazione va nella direzione da noi auspicata, nella rivisitazione di quella che abbiamo conosciuto come tariffa omnicomprensiva, cioè i famosi 28 centesimi per gli impianti sotto il megawatt, quella che viene definita generazione distribuita. Parliamo di produzione di energia elettrica da biomasse. Produzione di energia elettrica da biomasse, che per quanto ci riguarda ha rappresentato sicuramente per le aziende agricole una buona risposta in riferimento a quello che lei ricordava, cioè una possibilità per l'impresa di integrare il suo reddito attraverso la produzione di energia, in particolar modo da rifiuti che venivano generati in azienda. Lo stesso possiamo dire per i certificati verdi, per la loro riformulazione, che dal nostro punto di vista risente anche di quello che è avvenuto sul mercato dei certificati verdi fino ad oggi, quindi con il crollo dei certificati purtroppo non è stata volatilità ma è stata veramente un andamento dei prezzi per i produttori assolutamente non in grado di garantire gli investimenti che sono stati realizzati. Probabilmente sul fotovoltaico il contenimento dell'incentivo dal nostro punto di vista poteva essere meno radicale. C'è da dire che indubbiamente questa è una tecnologia che in questi anni ha fatto notevoli passi avanti anche sotto profilo dei costi di impianto, per cui complessivamente Confagricoltura ritiene che il decreto possa essere considerato positivo. Ovviamente ci sono una serie di emendamenti nelle commissioni ambiente e attività produttive che noi dobbiamo continuare a vigilare perché il decreto non sia stravolto nei prossimi giorni. Va bene, d'accordo, quindi questa è la vostra opinione. È vero però che manca completamente tutta una parte, la parte di colture dedicate alla produzione energetica. È uno scenario nel quale voi non credete questo. Cosa ne pensate di coltivare quel milione di ettari che non sono coltivati magari per fare colture dedicate? Avete dei programmi, dei progetti da questo punto di vista? Come posizione della Confagricoltura evidentemente noi facciamo riferimento a quelle che sono le iniziative dei nostri imprenditori, ovviamente, quelle che sono le attese, le aspettative, dando anche degli indirizzi. Quindi i binari possono essere considerati due. Sicuramente c'è quello di cui abbiamo parlato fino adesso e quindi c'è quello dell'autoproduzione e dell'immissione in rete dell'energia prodotta dalle aziende agricole, c'è anche quello della produzione di colture dedicate per impianti di medie e grandi dimensioni. Ovviamente tutto questo deve tener conto del fatto che gli imprenditori sono interessati a mantenere coltivati i loro terreni, che dal nostro punto di vista non c'è nessun aspetto in antitesi con le produzioni alimentari. Se una parte di quei 990.000 ettari non coltivati in Italia vengono destinati a produzione anche no food, e che quindi sotto questo profilo le posizioni ideologiche che hanno fino ad oggi contraddistinto molto il dibattito su queste coltivazioni, ricordo anche quelle che si fecero sul bioetanolo, noi riteniamo che siano sostanzialmente fuorvianti anche per le scelte politiche e imprenditoriali che devono essere fatte nel nostro paese. È chiaro sotto questo profilo che noi abbiamo molti ettari che possono essere destinati a coltivazioni alimentari verso le quali noi rivolgiamo grande attenzione, però sta all'imprenditore agricolo decidere, perché se quelle filiere non sono più reddituali e produttive Allora, piuttosto che lasciare abbandonati i campi, è meglio indirizzarli verso culture dedicate che nella filiera agroenergetica possono avere una risposta positiva. Quindi se degli certo. impianti di medie e grandi dimensioni, con dei contratti di coltivazione pluriennali, diventano i recettori di culture dedicate, ben venga. D'accordo, d'accordo. Ecco, a proposito di coltivazioni energetiche, voi avete in mente qualcosa? Io non so se Confagricoltura, per esempio, abbia degli studi in attivo, stia cercando di capire quali specie, per esempio, convergono. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni sul sorgo insieme all'Università di Pavia, abbiamo lavorato con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sempre sulle coltivazioni di short rotation per il pioppo e abbiamo avuto, diciamo, con l'Università di Firenze e con l'Accademia dei Georgofili una serie di iniziative che hanno preso in considerazione delle coltivazioni appunto dedicate, come anche il triticale, cioè questo, diciamo, un altro cereale che può essere dedicato soprattutto nelle regioni del sud a biogas, e all'interno di questo percorso c'è anche la considerazione che il quadro degli incentivi italiani ha senso se, oltre che a sviluppare la domanda per la realizzazione degli impianti, sviluppa una tecnologia italiana. Ecco, lei crede che fra agroenergie, fra coltivazioni dedicate e magari anche un riconoscimento per le attività di tutela del territorio, l'agricoltura possa fare a meno degli incentivi che ormai da anni sono indispensabili per mantenerla in vita in Europa, non solo in Italia? Allora, non ritengo ne possa fare a meno, ritengo che possano essere trovare una forma di complementarietà con le attività come quella agroenergetica e come quella di difesa del territorio, rappresentando in questo senso una molla di sviluppo per l'agricoltura del futuro. Grazie, grazie Federico Vecchioni. Molto bene, grazie a voi. Questo è tutto, domani vediamo di capire come ha fatto una villa Liberty del 27 a traslocare in classe energetica B+. A domani.